Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il tempo è davvero un'idea volubile. Ricordo ancora che da bambina sentivo tutti, direi i 17enni che si avviavano alla maggiore età, che dopo aver soffiato le 18 candeline, il tempo sarebbe volato. E non sono stata una di quelle che hanno atteso con ansia l'arrivo del compleanno che mi avrebbe fatto diventare adulta. Però questo discorsetto apocalittico me lo sono sorbito pure io. Quando me lo dicevano, io annuivo, senza dargli troppo peso. Perché un anno in più non avrebbe certo cambiato le cose, no? E tantomeno dato una botta di acceleratore alla mia vita. Beh, avevano ragione. Mi chiamo Anna Giulia Scaini, ho 21 anni e vivo a Cisterna di Latina. Ma al momento sto vivendo a Roma perché comincerò l'università a breve, anzi ricomincerò l'università a breve. Quando è che esattamente si diventa grandi? Cioè, quando è che cade quella linea lì che ti separa da che sei un bambino a che improvvisamente no, sei già un po' più grande? Cioè, che di solito è la linea della responsabilità, no? È quella che ti fa smettere di fregartene delle cose e invece ti fa cominciare a fregartene di quello che ti succede, perché di fatto hai delle responsabilità. A volte succede perché c'è un evento grosso, succede una cosa grossa, che sia bella o brutta, però qualcosa accade e dopo quello capisci che l'infanzia se n'è andata. A volte invece no. A volte semplicemente uno un giorno apre gli occhi e si rende conto che è cambiato qualcosa. Il racconto di oggi di Anna Giulia riguarda esattamente quella cosa lì. Ed è che non deve per forza succedere qualcosa di grosso per farti capire che sei diventato un adulto. A lei è capitato un giorno, un pomeriggio credo, mentre aspettava che qualcuno la chiamasse per uscire, mentre era in casa. E più tardi lo racconterà lei molto meglio di me. Non so cosa stiate facendo e non so nemmeno se voi siate diventati adulti o se ancora siete dall'altra parte della barricata. Però sfermatevi 30 secondi e cercate di ricordarvi quel momento lì, quello in cui appunto o è successo qualcosa o magari no, però avete aperto gli occhi e avete detto: eh sì, mi sa che sono diventato grande. 349-238-6666. Susanna oggi mi ha scritto: sono diventata grande quando ho partorito la prima figlia. Appunto, questa è una roba grossa, cioè è un po' difficile non accorgersi, no? Che, nel senso che è un parto e quindi poi no, partorirai nelle lacrime, eccetera, eccetera. Donata invece ha detto che io ho realizzato che sono diventata grande da quando impongo ai bambini di fare silenzio perché devo guardare i titoli del telegiornale. Antonella è un altro evento grosso, è quando si sono separati i miei. Però invece è arrivato un messaggio oggi sul profilo Facebook che è sempre quello, è Matteo Caccia, io sono qui, se cliccate su mi piace avete accesso a tutto il resto. Dov'è? Eccola qua, Rebecca. Sono diventata grande quando alla cassa del supermercato ho detto: sì sì, faccio la raccolta punti, mi dia il raccoglitore. Che effettivamente quando uno studia all'università non fa la raccolta punti, no? Cioè non è che uno pensa di prendere i piatti da tenere nell'appartamento dell'università. Boh, non so, magari sì, magari Anna Giulia sì, poi glielo chiedo visto che lei ancora fa l'università. Francesco, quando ho firmato il mutuo. Fabio, quando ho smesso di dire a mia mamma: mamma, aspettami che da grande ti sposo io. Aspetta un attimo, forse l'ho letta male, togli un attimo la base. Quando ho smesso di dire a mia mamma: mamma, aspettami che da grande ti sposo io. Questo è proprio Edipo puro, direi. 349-238-6666. Ieri, tra l'altro, proprio mentre scrivevo su Facebook in casa quello di cui avremmo parlato oggi, lo so che avevo promesso che l'avremmo scritto subito appena finiva la puntata, però delle volte ci si perde via, un po' è quasi sempre colpa di Bonini, ci si perde via. Comunque ieri sera, mentre stavo più o meno raccontando quale sarebbe stato il tema della puntata di oggi, cioè quando è il momento in cui si diventa grandi, c'era su National Geographic Channel una roba bella, ovviamente come sono belle tutte le robe lì di National Geographic, History Channel, però che parlava di un rito australiano, quindi aborigeno. ci siamo. Un rito aborigeno che ha proprio a che fare con il passaggio dell'età all'età adulta e che si chiama scarificazione. Niente, in sostanza si tagliano, più o meno. Cioè c'è un signore che è più anziano degli altri, che ha la barba grossa ma è pitturata di bianco, che è tutto pitturato di bianco, e c'era un tizio che è il solito inglese, avete presente l'inglese pallido che va o in Africa o in Australia e dice e adesso faccio quello che fate voi. C'era questo signore pallido, magrolino, che si faceva scarificare, che non è scarnificare, è un'altra cosa, si faceva fare dei tagli sulla pelle con una pietra. Va bene, mi fermo qui perché quello è abbastanza truculento. Oggi invece vorrei sentire passaggi all'età adulta che sono un pochettino più leggeri, anche se oggi mi è arrivato questo messaggio che non è leggerissimo. Roberto mi dice io sono diventato grande la notte insonne nella quale ho messo a fuoco che la morte è un evento irreversibile. Questa riflessione mi è stata scatenata non so come, non so perché, dalla visione di un film che si intitola Soldato Blu. Terribile. Non ho assolutamente idea di cosa sia questo film che si intitola Soldato Blu, ma Franco Piantanida, velocemente dall'altra parte del vetro, andrà a cercarlo. 349-238-6666. È la volta di Anna Giulia, che si è accorta che era diventata grande un giorno nella sua casa di studentessa. Non lo so se avete presente quei momenti in cui ti trovi sola, sul divano, seduta come se fossi in punizione, anche se non hai fatto nulla di cui pentirti. Ecco, fate così. Immaginatemi in quel modo. Vestita di tutto punto, mentre aspetto il classico squillo che vorrebbe significare «Esci che stiamo arrivando». Distrutta, perché ho lavato il mio buco di casa e ho steso quei 4 panni che ho sporcato durante la settimana. Ecco, mi guardo intorno e cosa vedo? Vedo naturalmente un batuffolo di polvere, che è lì a ricordarmi che per quanto mi possa sforzare, questa casa non sarà mai pulita. Ma è quello che sento nell'aria che fa la differenza. Sento l'odore dei vestiti che pervade il mio unico piccolo ambiente soppalcato. Dovrei sentire profumo di pulito, no? E invece no. Perché anche se utilizzo lo stesso maledettissimo detersivo di mia madre, tutto quello che lavo, a partire dalle lenzuola fino ad arrivare alle mutandine coi cuoricini, non ha l'odore di quelli che lava lei. E ancora non riesco a capire il perché. Non lo so, forse perché a casa nostra può stenderli sul balcone. Balcone che qui non ho. Sì, forse il motivo è quello. E poi se piove io ho una casa che è grande quanto un decimo della sua e tutto puzza di umido. Forse no, forse semplicemente perché lei fa lavatrici intelligenti. Usa il misurino e tutti i programmi specifici per ogni tipologia di tessuto. Lei non è una che va a occhio. Io sì. Lei segue le istruzioni anche nel sapone e io no. E infatti sbaglio. Per tirarmi un po' su, ho mangiato una bella minestrina con il formaggino. Altra idea geniale. Una matriciana, una carbonara, ecco cosa ci voleva. Cibo per gli occhi e per il cuore prima ancora che per lo stomaco. No, minestrina e formaggino. Non lo so. Ma non solo. Arrivo pure a merenda con l'alito ancora fresco di dentifricio. E sono così pigra che penso che se mangiassi qualcos'altro, poi dovrei lavarli di nuovo. La cosa bella di abitare da sola è proprio la libertà di poter incasinare la cucina nei modi più tremendi. Solamente che quando la farina arriva fino sopra il soffitto e l'albume dell'uovo ha appiccicato praticamente tutto il ripiano, non hai l'ansia di pensare adesso arriva mamma e mi dice hai fatto un casino. Invece ti guardi e pensi per fortuna che vivo da sola. E mi sento un po' come un personaggio di Dostoevsky, che fa delle sciocchezze e poi le elenca tutte per notare quante ne stia facendo. Ci rifletto sopra talmente tanto che le volte che opto per stuzzicare qualcosa mi rendo conto che invece della merenda è diventata l'ora dell'aperitivo e che quindi manca poco per la cena e forse non ne vale la pena di rovinarmi la fame serale. Che poi il mio manca poco è relativo, no? Ma 3 ore non sono poi molte, se ci pensate. In 3 ore quante cose si possono fare? Non tante quanto potresti immaginare. Datemi retta. Leggi un libro, 1 ora. Ti fai una passeggiata e già ti ritrovi a casa con 1 ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia. È che il tempo è veramente un indavolubile. Io mi ricordo quando da bambina sentivo dire ai 17enni che si avvicinavano ai 18 che dopo aver soffiato quelle 18 candeline il tempo sarebbe volato. Me lo ricordo ancora e io non sono stata una di quelle che ha atteso con ansia l'arrivo del compleanno che mi avrebbe fatto diventare adulta. Questo discorsetto però me lo sono sorbita anch'io. E quando me lo dicevano io ovviamente annuivo senza dargli troppo peso. perché alla fine un anno in più non è che avrebbe cambiato le cose, no? E tantomeno ho dato una botta di acceleratore alla mia vita. Invece no, avevano ragione loro. Ho 21 anni adesso, ma i tre che mi separano dalla me diciottenne sono passati in un batter d'occhio. Figurati quanto poco ci vuole a far passare 3 ore. In realtà pensavo sinceramente che la vita universitaria sarebbe stata peggio. La fortuna è stata che già al liceo mi ero abituata bene a dividermi il mio tempo. Però certo, una cosa che assolutamente non mi manca è il fatto di avere l'ansia ogni giorno, perché potevo essere io quella chiamata per l'interrogazione. Adesso almeno quando essere interrogata, tocca a me deciderlo. Ecco, adesso dovrebbe essere mio il ruolo di uccello del malaugurio, quello che va a tentare di spegnere l'entusiasmo dei giovani che non aspettano altro che compiere 18. Che cosa ci sarà poi di così bello nel diventare grandi? Ancora mi è oscuro. Qualche anno fa ero così contenta a casa con i miei, le amiche, mi barcameravo tra un impegno e un altro. E adesso invece? Adesso siamo tutte sulla via dell'età adulta. Studiamo, lavoriamo. Io che vivo lontana sento la mia famiglia al telefono. Non divido più la giornata con loro e passo le mie in una routine che ormai è consolidata. Mia madre dice che questo è quello che succede nella normalità di una studentessa, come me. La cosa non mi incoraggia e io sempre lì ad aspettare che il telefono vibri. E poi, invece dello squillo, arriva un messaggio. Comincia a uscire, ci troviamo davanti al piccolo. Era ora. E vorrei quasi baciare chi l'ha scritto, anzi, lo farò. E mi esce un sorriso solitario, che è una delle cose più belle che ci sono. Ne avevo abbastanza di pensarmi addosso. È che forse diventare adulti non significa diventare vecchi, significa cambiare. E lo dobbiamo fare tutti, no? È obbligatorio. Perché chi non lo fa sta male, vive male. Il corpo cresce, i desideri cambiano. La mente pensa cose diverse. Il cuore si muove in maniera scomposta. Tutti facciamo fatica a farlo. E chi lo fa prima lo fa troppo presto. E chi lo fa dopo lo fa troppo tardi. Ognuno credo abbia il suo momento giusto. Io il mio momento giusto l'ho riconosciuto, però l'ho lasciato scappare. Non è successo come Anna Giulia. No, mi è successo su un campo da calcio. A tutti gli adolescenti capita di farsi delle domande giuste nel momento sbagliato, quando non c'è nessuno a dare risposte. E piano piano si capisce che la persona che può dare le risposte a quelle domande è proprio chi quelle domande le fa. Sono cose che sanno tutti, però quando ti capita è una bella botta e non la dimentichi tanto facilmente. L'età adulta è fatta di un sacco di ingredienti, ma ce n'è uno da cui non si può prescindere. È prendere delle decisioni. Il bello di questo è che non importa che decisione hai preso, e non importa nemmeno se sia giusta o sia sbagliata, perché nel momento in cui hai deciso di prendere una decisione, sei già diventato adulto. Ed è quando non c'è più una parte dentro di te che si chiede, boh, chissà cosa direbbe la mamma, chissà cosa penserebbe il papà. Ecco, forse è lì che sei diventato grande. È proprio quando si dice fare di testa propria. Per me il momento giusto sarebbe stato il giorno in cui ho dovuto decidere che tacchetti mettere alle scarpe da calcio. Sì, proprio i tacchetti, quelli che attacchi sotto. Però me lo sono lasciato scappare il momento giusto. E ancora ci ripenso. Io gioco a calcio fin da quando ero piccolo, quindi ho sempre avuto mio padre o un allenatore a dirmi cosa fare, come muovermi, come vestirmi, come mettere i calzettoni, che scarpe usare. Io di solito usavo le scarpe con i 13 tacchetti, no, quelle standard, spesso di gomma, perché per usare quelle con i 7 tacchetti ci vuole proprio che ci sia l'erba bagnata, che stia piovendo, che per terra ci sia quasi il fango. Lo dico per le donne questo, che magari non sanno esattamente che differenza c'è tra i 13 e i 7 tacchetti. Insomma, i 7 li metti quando non devi scivolare. È raro che si usino, però fa molto figo. Ti sembra di essere un giocatore vero, di quelli che giocano sull'erba morbida dei campi di Serie A e non su quella dura degli oratori o dei campi di provincia. Vabbè, comunque un giorno avrò avuto 15 anni. Andiamo alla partita del sabato. E mio padre non mi accompagna perché quel giorno credo avesse l'influenza e pioveva ed era meglio che non prendesse freddo. Allora mi accompagna il papà di un compagno di squadra. Arriviamo sul campo e il campo è zuppo, ma non troppo. E quindi tutti ci si guarda in faccia perché non sai che scarpe mettere. Io li vado in automatico e per una volta non chiedo a nessuno. Non chiedo all'allenatore, che intanto ha altro cui pensare, e nemmeno ai papà dei compagni. E lo so che è il momento che sia io a decidere che scarpe mettere. Lo sento. E quando sono lì tra me e me, con le scarpette in mano, mi accorgo di una cosa orribile. Mi accorgo che non riesco a decidere. E allora faccio una cosa semplice. Non decido. Vado per forza d'inerzia. E metto quelle che ho sempre messo. Al fischio d'inizio capisco subito che ho fatto una boiata. Sono sempre per terra e non prendo una palla. Ma non è quello che mi fa arrabbiare. Quello che mi manda in bestia è che lo sapevo che dovevo decidere, ma non l'ho fatto. Avrei potuto decidere di mettere le scarpe sbagliate, ma almeno mi sarei sentito grande. Tutto sporco di fango. E sempre in terra magari, ma adulto. E invece sono solo un bambinetto che scivola sempre quando deve fare uno scatto. E poi non ho capito se lei se n'è accorta veramente quel giorno guardando il batuffolo di polvere o sentendo l'odore di umido in casa. E allora glielo chiedo direttamente. Pronto, Anna Giulia? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene. Dove ti trovi adesso? Adesso sto nell'altra casa, a Roma. Mi sono ritrasferita. Perché allora, spiegami un attimo, quando hai scritto questa cosa eri in una casa a Milano. Esatto. E studiavi che cosa? Studiavo comunicazione e pubblicità. Poi mi sono laureata adesso a luglio e mi sono trasferita per la specialistica a Roma. Quindi sei tornata a casa? No, di nuovo vivo da sola, però adesso... No, a casa, perdonami, nel senso che ascoltando l'inflessione del tuo accento, immagino che tu sia più vicina a casa tua adesso. Sì, sì. In quel senso. Sono più vicina a casa, però la lavatrice ce l'ho comunque qui. E c'è sempre lo stesso odore di umido quando stendi i panni? No, è peggio la situazione, perché adesso c'è mio fratello che le fa e profumano i panni, a me no. Ah, quindi è proprio una questione legata a te, non è nemmeno legata allo spazio. Senti, cosa studi adesso? Adesso studio spettacolo teatrale e cinematografico. Ma senti, Giulia, ma una roba tipo l'ingegnere o il medico? Ma poi sei restata troppo con me, la mia famiglia non andava bene, no? Cosa fanno? La tua famiglia sono medici e ingegneri? Medici e professori, quindi... Senti, cosa vuoi fare da... Tu quanti anni hai? 21? 21, però è divertente perché parli dei 18 anni come se fosse un'epoca ormai passata. Insomma, anni e anni fa, quando compissi 18 anni. Sì, quando andavo a ballare e mi sentivo bene. Adesso vado a ballare e vedo quelle che hanno 17-18 anni. No, ma aspetta, Anna Giulia, ma io non ci posso credere. Ma scusami, io lo capisco che tutti quanti pensano di essere molto più anziani di quanto non lo siano. Ma hai 21 anni? Lo so. Però sarà che sono diventati grandi loro e quindi io dico, vabbè, io sembro sempre uguale. Vabbè, senti, tu c'è stato un momento, al di là di sentire l'odore di umidità nell'aria, in cui hai pensato veramente sono diventata più grande di prima? Quando sei laureata, quando è successo qualcosa oppure semplicemente hai sentito questo peso da un giorno all'altro in discoteca guardando le 17enni? No, in realtà è proprio quando ho deciso di partire e andare via per l'università, quando sono andata a Milano. È stata la prima grande decisione, la prima grande scelta. E un po' mi è pesato, perché comunque stavo bene a casa. Lo immagino. Senti, e poi ti saluto, Anna Giulia. Tu hai detto che studi teatro? No, scusami? E teorie tecniche dello spettacolo teatrale e cinematografico. E quindi da grande diventi? Da grande non lo so, io vorrei diventare una sceneggiatrice, però sai. Ah, ok, però una disoccupata. L'obiettivo, vabbè, ma quello sai, lo siamo tutti tra un lavoro e un altro. L'obiettivo è quello, quindi, sì. Più o meno scrivere per non lo sai. Chi me lo chiede, dai, diciamo così. Anna Giulia, ti faccio un sacco di in bocca al lupo e grazie per il tuo racconto. Previ, grazie, buona giornata. Ciao, grazie. 349-238-6666. Attenzione, perché Franco Piantanida, ma anche Paolino Corleoni, insieme agli ascoltatori che mi hanno scritto, ho scoperto che cos'è, adesso l'avevo scoperto ma l'ho perso, ho scoperto che cos'è il film di cui mi parlava Roberto. Eccolo qua. La notte insonne in cui ha capito di essere grande è stato dopo aver visto il film Soldato Blu, riflessione scatenata dalla visione di quel film, che era un film molto molto cruento, credo. Qualcuno mi ha scritto, adesso lo ritrovo, eccolo qua, è un film su un soldato americano nordista che viene catturato dagli indiani e parla di una storia che in realtà noi conosciamo più che per quel film, probabilmente per una canzone. Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Questa canzone qua è una canzone di Fabrizio De André che si chiama Fiume St. Creek. Si chiama Fiume St. Creek, no? No, forse è un titolo più lungo. No, si chiama Fiume St. Creek. E racconta la stessa storia di questo film, che è Soldato Blu. In sostanza è una strage di indiani, non so di quale tribù, che avviene proprio in un campo. Ho visto alcune sequenze del film su YouTube. Non fatelo. Perché anche se è degli anni 70, mi pare. Aspetta che... Eccolo qua, è un film degli anni 70, diretto da Ralph Nelson, che non so chi sia, che è proprio ispirato a quel massacro degli indiani d'America, del fiume St. Creek. La cosa particolare di questo film è che in realtà per la prima volta un film western stava dalla loro parte, stava dalla parte degli indiani. Probabilmente è per questo che è così cruento. Insomma, si vedono teste che saltano, si capisce che sono pupazzi perché siamo negli anni 70, però comunque non è proprio piacevole. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno. Mio nonno disse sì. E invece Marianna mi ha scritto: il mio papà aveva una regola. I bambini non possono rispondere male ai genitori. Non possono mai avere l'ultima parola. E io ho capito che ero diventata grande nel momento in cui la mia mamma era partita all'estero per lavoro. Ed era la prima volta che era via. Il papà era da solo e si è messo a bere. Beveva tanto. Gli ho chiesto di parlare. Ecco, quella è stata la prima volta che io ho avuto l'ultima parola. Avevo quasi 17 anni. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Anna Giulia è proprio una ragazza per bene. Lo si vede dalla foto che ha mandato al programma e che vedete sul sito di Radio 24, alla pagina Voi siete qui. Dopo lo linkiamo anche sul profilo Facebook per chi la volesse vedere. È una ragazza di 21 anni e si vede, ha un viso sorridente, è ben pettinata. È una di quelle ragazze con le perle all'orecchio, credo che sia una perla all'orecchio. E sono una categoria le ragazze giovani con le perle come orecchini. Ha un bel maglioncino rosa e una camicetta bianca e si vede che è diventata adulta. Voi siete qui. Non ho niente contro i tuoi amici, mi piacciono. Devo aiutare Charles a finire le riprese. Perché non vai in giro con ragazzini che non passano tutto il giorno tra cineprese e trucco da mostri? Chiudi gli occhi, per favore. E... azione! Un treno merci ha deragliato. Ancora non sappiamo che tipo di carico trasportasse. Non possiamo dirlo. Lo so. Questo film è uscito al cinema, credo, proprio lo scorso fine settimana. E, ne ha sicuramente parlato anche La Rosa Purpurea. È un film che credo sia molto generazionale, perché riguarda veramente le persone che hanno tra i 30 e 40, 45, perché ha veramente quel sapore che avevano i film che parlavano di quella sottile linea che separa l'infanzia dall'età adulta, la giovinezza dall'età adulta. Il film si chiama Super 8 ed è, per farvi capire, quel genere di film alla Stand By Me, proprio con i ragazzini che fanno delle cose, a un certo punto succede una cosa molto grossa e i ragazzini salvano il pianeta e salvano anche un po' loro stessi. Il produttore è Steven Spielberg, il regista si chiama J.J. Abrams, che è quello ha fatto Star Trek, mi pare abbia fatto, insomma, ha fatto altra roba, dopo la diciamo meglio. La storia è molto semplice: questi ragazzini che fanno dei video con questo Super 8, e da cui chiaramente il titolo, e poi vabbè, poi arrivano gli alieni, ma quando mi hanno detto che era un film di alieni non volevo andare a vederlo. E invece è un film che parla di quella cosa lì, parla di quando a un certo punto ti rendi conto che non sei più un ragazzino. L'ho visto. Nessuno mi crede. Io ti credo. Ma che diavolo? 349-238-6666. Mi sono trovata grande alla nascita di mio figlio. Ho 39 anni. Giulia, quando ho avuto il lavoro fisso e quando sono andata via da casa dei genitori. Paolo, quando i miei mi hanno iscritto all'asilo. Paolo è un anziano, praticamente, anche se c'ha 20 anni. E poi Alberto mi ha scritto: mi sono accorto di essere diventato grande quando avevo tra le mani i giocattoli di He-Man e Skeleton, Master of the Universe, giusto? Ma non riuscivo più a creare una storia e mi sentivo un idiota a farli combattere scontrandoli tra di loro. Fu una sensazione stranissima e orribile. Tornando al film di prima, che si chiama Super 8, andate a vederlo, magari non in 3D, andate a vederlo in 2D normalmente. Quando l'ho visto sono tornato a casa e ho ripreso in mano un libro, ho ripreso in mano due libri, uno era Stand By Me, però era molto facile. E l'altro libro invece si chiama La sottile linea scura, è un libro abbastanza famoso di Lansdale, e racconta, è un libro in prima persona in cui questo bambino di 13 anni racconta un'estate. È sempre un po', sono sempre un po' tutte simili queste storie, però credo che ci piacciono proprio perché in qualche modo appartengono, se non ai nostri 13, ai nostri 14, 15 o 20 anni, insomma, quando abbiamo sorpassato quella linea scura. Volevo leggervene un pezzo. Lui si trasferisce con la famiglia in un paesino del Texas. Il padre, che era un meccanico, si mette a fare compra un drive-in, un cinema all'aperto, e quindi c'è il cinema e poi ci sono un sacco di personaggi, eccetera eccetera. E c'è un pezzettino in cui lui dice: ci avevano mandato un nuovo film, era The Fly con Vincent Price. Appena un anno prima mi avrebbe spaventato a morte, e il punto in cui la mosca dalla testolina di uomo dice aiutatemi mi avrebbe fatto venire gli incubi. Adesso non più. Questo è proprio un piccolo pezzo in cui lui racconta quella sottile linea scura. Questo è uno, e poi ce n'è un altro che è molto più bello di questo, ed è proprio il finale del libro. Ormai è tutto finito. Certe cose hanno avuto risposta, certe altre no. Nell'invecchiare, in realtà non è che sia poi così vecchio, neanche arrivo ai 60. Nell'invecchiare, dicevo, scopro che per me il passato ha più importanza del presente. Non sarà un bene, però è la verità. All'epoca tutto era ben più intenso. Il sole era più caldo, il vento più fresco, i cani più svegli. Non sempre Buster aveva ragione, e certe volte dava risposte sibilline. Ma una delle sue frasi mi è rimasta impressa. E continua a sembrarmi vera. Non sempre la vita dà soddisfazione, e al tirare delle somme, carne e polvere finiscono per rivelarsi la stessa cosa. Settembre spesso ad aspettarti, e giorni scarni tutti uguali. Fumavo 20 sigarette e grotto in gola e secca sete di te. Quei cartoline, condoglianze, e lo bastardo ci vediamo. L'adolescenza che spediti sulle mie tenebre incestuose. Lost ha fatto. Lost, mi sono arrivati tipo 15 messaggi in cui c'è scritto Lost e poi 5 punti esclamativi, perché uno può ricordarsi Star Trek ma non può dimenticarsi Lost. J.J. Abrams ha fatto Lost, per chi non l'avesse capito, il regista di Super 8 era l'autore, credo, anche oltre che regista di Lost. 349-238-6666. Ci sono messaggi diversi chiaramente tra loro. Io divento grande tutte le sere che vado a letto e vedo i miei figli e mia moglie, e so che loro dipendono da me. Io sono diventato grande a 14 anni, quando sono andato a lavorare per aiutare la famiglia. Poi c'è questo che un po' non lo capisco, un po' è divertente. Mi sono sentito grande a 10 anni, quando ho cucinato la pasta extra salata per i miei genitori, ma sono cresciuto davvero quando ho ammesso le mie colpe senza più scuse. Scusa, non ho capito allora. Cioè, era una colpa il fatto di aver salato troppo la... Sono due robe separate. Cioè, che ha salato troppo la pasta e... No? No, per piacere, spiegamelo. Cioè, hai salato troppo la pasta e poi... Per i genitori, e va bene. E poi sei cresciuto e hai ammesso la tua colpa, che era di aver salato troppo la pasta. No, va bene, sarà colpa mia. Marco da Vicenza: mi sono sentito grande prima di aprire la mia ditta. Mezzo miliardo di debito a 25 anni. Ma mollala subito. Mollala a qualcuno. Qualcuno che la compra ci sarà. Dai, di che ha meno chilometri di quanto ne abbia, come si fa con le macchine. La lavi un po'. quando sono arrivate le prime bollette intestate a me, Filippo. Invece, Salvatore, mi sono sentito grande quando ho messo incinta la mia ragazza. Ora ho 3 figli, sono sposato da 15. E poi questo non è male. Mi sono sentito grande quando ho cambiato i miei gusti musicali. Voi siete qui, @radio24.it, per mandare i vostri racconti. Visto che qualcuno mi chiede e mi scrive ancora, c'è ancora tempo per mandare i racconti? C'è sempre tempo per mandare i racconti. L'importante è che sia molto centrato e che sia un racconto di una pagina, che racconta un piccolo episodio della vostra vita. Qualcosa che racconti di voi, una piccola storia, che abbia inizio, uno sviluppo e una fine. Qualcosa che in qualche modo sia un tema, un argomento o una cosa che in questo momento vi riguarda. Non domani, non ieri, ma oggi, nel momento in cui lo scrivete. Non è importante se poi, quando ci sentiamo e quando leggeremo il racconto, non sarete più lì dove eravate quando avete scritto quel racconto. Il tempo è passato, l'importante è che siate lì mentre lo state scrivendo. Voi siete qui, @radio24.it, oppure il profilo Facebook è Matteo Caccia, io sono qui. Grazie a tutti quelli che sono di là, grazie a Tiziano Bonini che non c'è, ma c'è, grazie a Stefano D'Andrea, grazie a Franco Piantanida, rubato da Tempo di Sport, e a Paolino Corleoni. La storia di oggi era quella di Anna Giulia e del diventare grandi. Quella di domani è la storia di Elisabetta e parla di destino e di nomi. Mi è sempre piaciuto il mio cognome, perché è particolare, è un po' diverso. A volte è stata l'occasione per fare conoscenza con persone sconosciute. Non ho mai avuto problemi con il mio cognome, non ne ho mai avuto, fino agli 11 anni.